voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. But it wasn't real. Your mind makes it real. If you're killed in the Matrix, you die here. The body cannot live without the mind. È l'inizio della seconda parte di Eclettica, tutti i giorni, tra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, in compagnia di Giulio Caperdoni. Seconda parte che si è aperta con un progetto il cui nome è Goon Moon. chi fa parte di questo progetto? Ne fa parte Jordi White, che è più conosciuto come Twiggy Ramirez, sì, quello di Marilyn Manson, e anche dei Nine Inch Nails. L'altro componente della formazione è Chris Goss, ovvero sia il frontman dei Masters of Reality e produttore dei Caius e The Queens of the Stone Age. Il disco che è uscito per IPCAC è rappresentato dal brano che vi siete ascoltati quest'oggi in apertura della seconda parte di Eclettica, un disco a cui collaborano parecchi artisti, fra cui anche Josh Homme. E proseguiamo con le collaborazioni di Josh Homme. I brani dei suoi gruppi li sentite in altri orari. All'interno di Eclettica sentite le sue collaborazioni, come per esempio quella con James Lavelle. Il progetto, ovviamente, è quello chiamato Uncle. Il signor Albert Sykes riferisce il caso seguente. Ero seduto e mangiavo biscotti con degli amici, quando ho sentito la mia anima abbandonare il corpo per andare a fare una telefonata. Per chissà quale motivo ha telefonato la ditta Moskowitz Plexiglas. La mia anima è poi ritornata nel mio corpo e vi è stata per circa altri 20 minuti, sperando che nessuno suggerisse di giocare a sciarada. Quando la conversazione si spostò sul tema dei fondi azionari, l'anima partì di nuovo e cominciò a vagare per la città. Sono convinto che è andata a vedere la Statua della Libertà e l'ama spettacolo al Radio City Music Hall. Dopodiché è andata alla Benny's Steakhouse, dove ha mangiato per $68. Quindi ha deciso di tornare nel mio corpo, ma era impossibile trovare un taxi. Alla fine si è avviata a piedi per la Fifth Avenue e mi ha raggiunto appena in tempo per vedere il telegiornale della notte. Mi sono accorto che rientrava nel mio corpo perché ho sentito un brivido freddo e una voce che diceva «Sono tornata! Mi vuoi passare quell'uvetta?» Questo fenomeno mi è capitato parecchie volte da allora. Una volta la mia anima andò a Miami per il weekend e una volta fu arrestata mentre cercava di sgattaiolare dai grandi magazzini senza pagare una cravatta. La quarta volta è stato invece il mio corpo che ha lasciato la mia anima, anche se è andato solo a farsi un massaggio ed è tornato subito. Il distacco dell'anima era molto comune intorno al 1910, quando si dice che molte anime vagassero senza meta per l'India in cerca del consolato americano. Il fenomeno è piuttosto simile alla transustanziazione, dove una persona si smaterializza all'improvviso per poi rimaterializzarsi da qualche altra parte del mondo. Non c'è male come modo di viaggiare, anche se di solito bisogna aspettare mezz'ora per i bagagli. Il caso più sbalorditivo di transustanziazione è stato quello di Sir Arthur Nerney, che sparì con un pop molto chiaro mentre faceva il bagno e riapparve di colpo fra i violinisti dell'Orchestra Sinfonica di Vienna. Rimase come violino di spalla per 27 anni, anche se sapeva suonare solo quel mazzolino di fiori, e sparì bruscamente un giorno durante la Sinfonia Jupiter di Mozart, per ricomparire a letto con Winston Churchill. Questa era ancora breve introduzione ai fenomeni medianici, da citarsi addosso, di Woody Allen. Now and then. what it really reminds me of? Tasty wheat. Did you ever eat tasty wheat? No, but technically neither did you. That's exactly my point. Exactly. Because you have to wonder now. How do the machines really know what tasty wheat tasted like, huh? Maybe they got it wrong. Maybe what I think tasty wheat tasted like actually tasted like oatmeal or tuna fish. That makes you wonder about a lot of things. You take chicken, for example. Maybe they couldn't figure out what to make chicken taste like, which is why chicken tastes like everything. Gentle grace, sweet vanished pleasure. Oh, you kill me silently, pretending innocence, but silently kill. Rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh soul, cold, cold, cold, silently, in a dear embrace. Come to my heart, take and lilies from my grave. On a fine sunny day. Gentle grace, sweetheart infliction. Oh, sick pins in a yellow sun, protesting innocence, but suddenly killed. Spero sia stato piacevole riascoltare The Blow da parte di chi ascoltava Eclettica quando era ancora nel vecchio orario in seconda serata. Infatti penso di non averla mai trasmessa da quando siamo in questa fascia 19-20 su Rock FM. Come penso possa essere stata anche una piacevole scoperta il brano Parenthesis ascoltato qualche minuto fa per chi ancora non la conosceva. Invece si è appena chiusa The Flash Song da quella che è l'opera d'esordio, sperando che ce ne siano anche altre in futuro, di Juan Mordecai, un interessante progetto italiano che nasce dalle ceneri dei Karma, con una spruzzata però anche di After Hours. E a proposito di Italia, Eclettica prosegue con i Joycat, questa è Plastic City.

Ex Otago, Jonette Napolitano, Bright Eyes, Art Brew, Gun Moon, Uncle con Josh Home, The Blow, Juan Mordecai, Joycat, Scott Matthews. Giulio Cappardoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19 su Rock FM.